E sarà proprio la mia fratello amico. Vai a trovare Mirko. Salutamelo. Ciao. Ciao, ciao. Sì. Ti spaventa? No, sono pronto per domani. Ti fa vedere? Buono. No. Ciao. La testa la vedi? Da me un po' di pesate. Come? Mi sa che la spostavo, la chiudere è fatta con le altre. Attenzione che se ti inizia di partita vedere. Basta così? No, basta, grazie. Dopo, 3 golden e 4 arance tarocco. Le hanno offerto 99 centesimi. Ah, ok, sì. Sono un po' piccoline, però. No, basta che le si sbuccia, sì. 4 o 5 qua. Mm. Va bene. Sì, va bene. E dopo. Quelle 3 mediterranee qua a destra, quelle di sole. Credo che sia mediterranea. Sì, sì, sì. Ok, a posto. Buona serata. Ciao. A latte. Sì, dai, sì, perché vado a farmi la pena. Piccole 9 nostre, la proprio grande. Guarda, puoi vedere. Sì. Guarda che ha dimenticato, non so se le sue. Ha dimenticato i cerotti! Grazie. Ah, il signore che li ha visti? Sì, grazie. Ma... L'altro dì credo la sacchetta qui manca. No, la ghiera cascà, mi pare anche addirittura. La signora l'ha dato la panna del nano, dopo mi cura staccarla, ho visto che avevamo dentro nel salato della nana. Perché poi... ci pensa tutti, testa per aria. Le cugnate le inada da Brioli su carte per la pensione. Le arriva da Zoo e le ha fatte le sue robe e dopo la va al bar delle piccole stamattina a bevere caffè. E no, ieri mattina le sta. Le inada in bagno o con quelle da barla però da pure carte. Due carte sacche. E allora la disco del bar, la vado in bagno, forse non ti hai vado in bagno, la righiera. Vai pure rifatto per tutta strada che l'aveva fatta, nulla la trovai. Le Natalia ti sbarrano che ha problema, te le rifago, quelle della banca che te le fai rifare. E ovviamente che sono al telefono, la salutata, e non la riusciva più neanche a rispondere, allora sta signorina la che smorsa al telefono e dopo la rimpista quando te l'è andata fuori. E nel frattempo te le suona il telefono di nuovo, la sua figlia, ciao mamma, ciao, bella, bene, sì, ma ti manca qualcosa? No, la vedete. Ma sei sicura? Allora che sta qualche tu che davanti alla banca del tratto guardami ha trovato le carte, eri su un cassa rurale di polgaria, la buttai dentro e da rintracciare la cassa rurale di polgaria. Telefonai che arrivava a la responsabile, la responsabile la telefona su, a me ne goda la, per dire chi le ha trovato e gravare se, la torre. Se pensa massa, se è massa con la testa per aria. No, no. La gavella di borse è una... Ma anche la gara sul tassa, voi la gara no, ma credo che in generale tutti testa per aria, io proprio. Ciao.